domani probabilmente potrebbe succedere che o io devo tardare un attimo o la lezione dell'inizia il dottor Pellizzari, perché io sono coinvolto in una premiazione al liceo al mattino, teoricamente dovrei arrivare in tempo, cioè andare via all'Ambrate verso le 10:10 e quindi si immagina che il mezz'ora dovrei essere, però traffico per me è un orecchio, quindi in quel caso o c'è il dottor Pellizzari, che vi ho detto che inizia a farvi vedere qualche cosa in qualcosa, oppure se non volete essere anche lui per altri problemi, aspettatemi per dire che sono in arrivo, ma non ci sperate perché sarò allora. Iniziamo, ma in realtà fondiamo le domande che voi avete fatto alla fine della scorsa lezione con questa lezione. Alcune di queste domande troveranno, in realtà gran parte delle vostre domande non sono altro che un'anticipazione di temi che io ho già previsto nel corso delle lezioni. Per cui, per esempio, la domanda su equilibrio fra mondializzazione e rispetto delle identità nazionali che ha fatto Franno oppure quello sul federalismo di Mengo, oppure quella sul dialetto, reazioni culturali, locali, eccetera, di Parasiti. C'è Parasiti? Vedi? Faccio vedere un po', non c'è. Oppure quello di Torrini su globalizzazione e libertà, cioè se la globalizzazione favorisca o ostacoli i processi di libertà politica nei contesti, saranno in qualche modo accennate qui, ma sviluppate nel corso delle relative lezioni in modo molto più dettagliato. Due vostri colleghi hanno centrato una grossa questione, uno dei problemi centrali della ricerca storica, e cioè Gualandi, che ha posto il problema dei confini temporali della globalizzazione, chiedendo, vabbè, ma da quando possiamo ritenere che sia iniziata? C'è continuità o rottura in questi fenomeni? O c'è solo semplicemente un'accelerazione in un processo che in realtà è plurisecolare ed è uguale a se stesso, semplicemente è più accelerato, più rapido? Poi c'è stato Pettignani che ha chiesto se la globalizzazione è un concetto generalizzabile o, cotto nelle cucine occidentali, non, adesso non so quanto Pettignani si riconosca in questa mia ricostruzione della sua domanda, o se la globalizzazione non sia altro che un progetto di occidentalizzazione del mondo. Cioè un tentativo dell'Occidente di rendere omologo a sé il resto del mondo. Non so se ho capito, Pettignani, ho capito bene la è in questo senso. Bene. Se può leggere questo progetto di occidentalizzazione. Molto bene. Ha anche accennato al caso di Al-Qaeda. Quello però lo vediamo quando faremo la lezione specifica sulle sfide della globalizzazione. Non so se ce la faremo a fare una lezione di due terrorismi e criminalità organizzata. Adesso vediamo come funziona. Allora, in questo senso si intreccia anche la domanda di Crosia, dico bene? C'è? Crosta non c'è, ma mi ha chiesto di prendere appunti. Sì, Crosia o Crosta? Crosta. Crosta, perfetto, non c'era la stanietta. E cioè le cause delle differenti definizioni del fenomeno. Guardate che sono cose che si intrecciano. Noi abbiamo detto una cosa, che definire un fenomeno storico equivale a un fenomeno. non c'è una sostanziale distinzione fra definizione e giudizio. In qualche modo la definizione, come ogni altro giudizio, non è separabile dal suo autore e inevitabilmente ne riflette il punto di vista. Facciamo un esempio, io credo di avervi fatto l'esempio della guerra dei boxer, ricordate? Che per i cinesi non è la rivolta dei boxer, è la terza guerra dei boxer. Questo perché, in base al punto di vista dell'osservatore, il fenomeno si presenta in una veste piuttosto che in un'altra. Per i partigiani la resistenza è la resistenza della guerra di liberazione nazionale, per i medici la repubblica sociale è la guerra civile, per i fautori della continuità dello Stato italiano attraverso la continuità del governo retto sono i militanti della repubblica sociale ad aver tradito ed aver colluso con il nemico, viceversa per quelli della repubblica sociale è la repubblica sociale la continuità dello Stato italiano che ha sottoscritto un patto con un alleato e gli altri hanno tradito. Come vedete è sempre relativo al punto di vista di chi osserva la definizione di giudizio. Da questo punto di vista quindi dobbiamo introdurre una distinzione importante per capire cosa c'è dentro questa scatola nera della globalizzazione. La differenza fra processo e progetto. Direte che qui già c'è l'osservazione sulla globalizzazione come progetto di occidentalizzazione del mondo. Allora, il processo per sua natura è un dato che ha una sua oggettività e che si manifesta, si sviluppa indipendentemente dalla volontà soggettiva di chi lo osserva, di chi lo descrive. In qualche caso ne prescinde totalmente. Facciamo un esempio: la nube vulcanica che in questi giorni ha mandato a carte 48 l'intero sistema di voli a livello mondiale è evidentemente un processo del tutto indipendente dalla volontà umana. Cioè, bisogna solo prendere atto, cercare di adeguarsi alla situazione che la deriva dei continenti, da cui poi scaturiscono terremoti ed eruzioni vulcaniche, non è altro che un processo che si svolge nel tempo continuo, totalmente indipendente dalla volontà umana. Viceversa, il progetto è sempre un atto soggettivo. C'è sempre un soggetto che immagina di adeguare l'essere, il mondo, a un dover essere immaginato. Il progetto può essere un progetto di grandissima portata, ad esempio un progetto rivoluzionario che sogna di rifondare le basi della società, oppure il progetto di riforma della Chiesa che era di altri che lo hanno anticipato, o può essere anche una cosa molto più ridotta e individuale, ad esempio il vostro progetto di conseguire una laurea. Ci sono progetti che hanno successo, progetti che non ne hanno o ne hanno parziali, ma evidentemente il progetto è sempre un dato individuale. E però nelle vicende umane soprattutto, vedete, io vi ho fatto l'esempio della deriva dei continenti come di qualcosa di totalmente indipendente dalla volontà dell'uomo. Però se dovessi riferirmi a processi di natura umana, sviluppo economico, innovazione tecnologica, mutamenti culturali, inevitabilmente la soglia soglia fra progetto e processo risulterebbe molto più sfumata. E questo però vi è ragione. Primo, perché ogni progetto realistico, che non sia una pura fuga onirica, fa sempre i conti con i processi reali in atto per trarne forza. Difficilmente un'utopia totale. Torniamo all'età della pietra, perché così salviamo l'ambiente e probabilmente non fa i conti con una serie di resistenze e soprattutto con l'assenza di pulsioni sufficienti a sostenere un progetto del genere. Sì, è vero che l'ambiente degrada, è vero che le emissioni, per esempio, peggiorano la produzione climatica, è vero che si corre il rischio di una catastrofe ambientale, ma l'ipotesi di poter di colpo tornare a una sorta di stato di natura non appare minimamente realistico. In secondo luogo, i processi a loro volta includono sempre processi sociali, includono sempre una pluralità di soggetti con i relativi progetti. Progetti che si sostengono, si annullano a vicenda. Diceva Engels che la storia è la risultante dell'azione intersoggettiva al termine della quale il risultato finale non coincide con nessuno dei disegni soggettivi. Quello che verrà fuori potrà essere più o meno vicino al disegno di qualcuno, ma non coinciderà mai con il disegno di nessuno in particolare. È un po', io spero che voi abbiate memoria della legge del parallelogramma in fisica. Sì? No, eh? Vabbè, voi sapete come si calcola la risultante di due forze diverse? Si può tirare su questo coso di avanti? Sì, ma non c'è. Destra. Potrebbe contrastare con la mia volontà, non fate cospetto. quali sarebbe, provate a indovinare. Ecco, sarebbe caduto, perfetto. No, così comincia a risolvere l'idea. Ecco, quindi, non solo, ma i progetti spesso influenzano e innescano nuovi processi. Raramente li determinano del tutto, per la ragione che vi ho detto, e infatti i grandi fenomeni storici che producono rivoluzioni radicali sono piuttosto rari. Perché? Perché qualsiasi azione soggettiva si misura immediatamente con le resistenze dell'ambiente e con le resistenze di altri soggetti, in qualche modo viene normalizzata. Quindi in stato di natura, come nella società, lo stato esistente tende a conservarsi, prevale la conservazione, una sorta di conservazione dinamica. Qui cominciamo ad avvicinarci al discorso, alla richiesta del vostro collega su continuità, discontinuità, accelerazione. Lo stato di natura tende a conservare lo stato di fatto, perché ogni mutamento richiede energia e l'ambiente ha un suo specifico attrito che assorbe energia. Ecco perché nella maggior parte dei casi voi avrete un mutamento naturale piuttosto lento, nel segno della continuità, e solo in alcuni momenti in cui si condensano, si incontrano una serie di forze dirompenti, avrete delle rotture, dei salti di discontinuità. Che cosa succede? Succede che è facile che progetto e processo si sovrappongano, finiscano col confondersi e rendersi non sempre immediatamente distinguibili. Perché? Ma intanto perché spesso sono un autoinganno, è l'autoinganno del cosiddetto pensiero desiderante. Io voglio che sia così. E quindi finisco con, inconsapevolmente, finisco con il sopravvalutare quei fattori di analisi che vanno nella direzione che io auspico, e col sottovalutare le resistenze che vanno contro il cambiamento auspicato da me. In qualche modo, inevitabilmente, questo riguarda ciascuno di voi. Per credere in quel che si fa, bisogna anche credere che possa riuscire. E uno dei meccanismi psicologici più elementari è quello di caricare le aspettative di certezze infondate, scambiando le probabilità per certezze o i vari indizi per prove. Questo è un meccanismo classico nel quale spesso cadiamo. Oppure, al contrario, può essere un inganno consapevole verso altri. Io presento per oggettivo inevitabile quello che invece è solo una mia operazione. Magari non tutto il mio progetto lo presento come oggettivo inevitabile, una sua parte. E vedrete che questo è il caso specifico della globalizzazione, dove spesso alcune tendenze innescate volontariamente vengono presentate come progetto, processo oggettivo della storia, non superabile. Questo è particolarmente vero quando ci si incroci con filosofie della storia di tipo storicista. È dall'Ottocento che si afferma l'idea di una storia che ha una sua forza propria, ha dei suoi fini. Quante volte ve le avete sentito dire: sei fuori della storia, la storia segna delle tappe irreversibili. In una certa misura è vero, io vi ho detto che nulla passa senza lasciare traccia e non è mai possibile il ritorno indietro. Questo però non significa che la storia abbia una freccia direzionale. L'idea che la storia abbia un fine ultimo da raggiungere. Una volta mi chiesero, sarà conosciuto dall'ultimo uomo nell'ultima ora della sua vita. Peccato che non avrà chi raccontarlo. E dunque, se anche esistesse questo fine ultimo, la sua utilità pratica per noi sarebbe molto scarsa. Le filosofie della storia di tipo storicista tendono spesso a oggettivizzare dei disegni presentandoli come attuazione degli oscuri disegni di una divina provvidenza più o meno laica. E la filosofia della storia, il fine ultimo della storia, finisce per essere il surrogato laico di quello che era il piano di salvezza della divina provvidenza. Esistono molte forme di pensiero religioso, non sempre legate esplicitamente a una corrente religiosa, qualche volta possono anche vestire panni laici. Nel caso della globalizzazione spesso è accaduto esattamente questo. E dunque voi capite che definire un determinato processo ne anticipa il giudizio definitorio, e questa operazione parte essenzialmente dalla fissazione dell'origine di questo processo e dalla sua periodizzazione. Voi capite che qualcosa che è iniziato molto tempo fa, molto prima che ciascuno di noi ci fosse e quindi potesse avere un progetto, e che sembra essere andato avanti per continuità ininterrotta, ha di per sé una credibilità. Anche in questo caso stiamo traducendo un concetto premoderno. Il concetto di tradizione, per esempio, particolarmente radicato nel pensiero cristiano e nella Chiesa Cattolica. Nella Chiesa Cattolica la tradizione ha una valenza nel fissare le verità di fede e di morale equivalente a quella delle Sacre Scritture. La definizione dei dogmi è ricavata tanto dalle letture della e dalla sua interpretazione quanto dalla tradizione. Se c'è sempre stata una determinata venerazione vuol dire che essa aveva un fondamento oggettivo vero. Se un processo sociale è sempre stato avvenuto in un certo modo vuol dire che esso è inevitabilmente fatto. È una legge sociologica che ne determina l'andamento al di là della nostra volontà. Vedete come ritorna il discorso dell'oggettivazione. Quindi quanto più qualcosa ha una durata dalla sua, tanto più è credibile. Prendiamo un esempio, l'esempio più ovvio, che credo di avervi già accennato. Voi studiate la storia a seconda di vari periodi, come tutti ricorderete, ci siamo ora, la divisione in storia antica, storia dell'ego di mezzo e dell'ego, storia moderna e storia contemporanea. In realtà, questa descrizione della storia non è altro che la descrizione della storia dal punto di vista europeo. È la storia della proiezione dell'Europa nel mondo. E infatti è direttamente applicabile in questi termini e con quel tipo di periodizzazioni, per cui la storia antica e storia medievale, la soglia, la data periodizzante è la caduta dell'Impero Romano d'Occidente nel 476 d.C. con la deposizione di Romolo Augusto. Voi adesso spiegatemi cosa poteva importare ai cinesi, agli Incas o agli Aztechi della deposizione di Romolo Augusto, non sapevano neanche chi era. Poi il Medioevo coincide con la scoperta dell'America e ha una data precisa, 12 ottobre 1492, altra data della quale i cinesi proprio non gliela poteva importare meno. Ma tutto sommato, data probabilmente sì periodizzante per gli amerindi, per i nativi americani, ma probabilmente con un significato molto diverso da quello che vediamo noi a giudicare dallo sterminio a cui sono stati sottoposti. Difficilmente un erede degli amerindi, ce n'è ancora qualcuno, ricorderebbe quella data come l'inizio della modernità e la fine dell'ego di mezzo. Non avrebbe senso per tutta la storia. E così questa divisione della storia ci induce, per esempio, a immaginare il resto del mondo, pensiamo alla Cina e all'India, come qualcosa in cui ha avuto un lunghissimo medioevo, un lunghissimo feudalesimo, che si è rotto solo quando è arrivato l'uomo europeo a rompere questa sorta di incanto eterno di un feudalesimo incapace di rottura di modernità. Ecco, questa è una periodizzazione che, come voi capite, ha dentro un giudizio politico molto netto e molto chiaro a proposito di quello che vi chiedevate a proposito di globalizzazione e occidentalizzazione. E infatti tutto questo ebbe un suo nome, un nome che in qualche modo anticipa quello di globalizzazione. In Francia ebbe il nome di civilisation, la civilizzazione, perché il popolo europeo, i popoli europei, erano quelli che portavano la civiltà a popoli non civili. Donde quest'idea di una nazione, nel caso francese, che ha una missione nel mondo, quella di portare la civiltà. E voi capite che dentro a questo c'è un giudizio anche antropologico, che esiste una civiltà, la nostra, gli altri sono gli incivili, che appunto devono civilizzarsi. Questo è il fardello dell'uomo bianco, scrivendo qualcuno. Più moderatamente, in ambito anglosassone, si affermò un altro concetto che ha avuto più fortuna e più durata nel tempo, e in qualche modo è stato proposto come più oggettivo: il processo di modernizzazione. Esiste una modernizzazione per cui c'è la rottura della tradizione e la nascita di un mondo moderno. Poi magari qualche volta parleremo dei contenuti di questa modernizzazione. Grosso modo, anche qui, a proposito di perché le differenti definizioni, anche qui la modernizzazione non è che abbia una sua definizione oggettiva e certa. Grosso modo la si fa coincidere con l'intreccio, con l'interazione fra tre grandi processi: il processo di rivoluzione industriale, di nascita dell'industria moderna, dell'economia moderna, del mercato e dell'industria, il processo di secolarizzazione, quindi di emancipazione della società civile dal dato religioso, essenzialmente iniziato dalla riforma protestante, ed il processo di affermazione dello Stato moderno come Stato centralizzato unitario e tappa successiva di democratizzazione, la nascita del governo democratico rappresentativo. Questi insieme di fenomeni, secolarizzazione, centralizzazione, democratizzazione e industrializzazione, sarebbero il succo della modernizzazione. Se ci fate caso, ancora una volta stiamo parlando di processi storici europei. La riforma è un fatto europeo, la nascita dello Stato moderno e le rivoluzioni democratiche sono un fatto europeo, una piccola parte extraeuropeo per via della rivoluzione americana del 1776, però è fatta non dai nativi americani, ma da emigrazione europea in quel continente. E infine la rivoluzione industriale, che è un fatto essenzialmente inglese e poi allargato al continente. Non c'è dubbio che tutto questo ha significato un salto di qualità per l'Europa e ha permesso il superamento in termini di potenza militare, di ricchezza materiale, di capacità di calcolo e di elaborazione culturale, che ha permesso all'Europa di superare altri. Guardate che secondo Guglielmo il dislivello fra cultura europea e, per esempio, modello di civiltà europeo, modello di civiltà cinese, non si avverte fino al XVIII secolo. Il sorpasso avviene col XVIII secolo. Noi siamo abituati spesso a pensare a un'Europa o a un Occidente, per essere più precisi, da sempre più avanti degli altri, o quantomeno fin dal 1500, e a una Cina da sempre più arretrata. Per cui pensiamo al sorpasso della Cina sugli Stati Uniti, per esempio in termini PIL, previsto per il 2040, però con la velocità di ripresa cinese io non giurerei che sia così lontana questa data, come un avvenimento epocale che per la prima volta, no, non è per la prima volta, quello, una delle trappole classiche di chi non pensa in termini storici e quindi ha un atteggiamento non critico rispetto al presente, è quello di scambiare il presente per l'eternità, per qualcosa che ci sia sempre stato e di conseguenza sempre ci sarà, o quasi. Il pensiero storico ti insegna a relativizzare, esiste un rapporto molto stretto fra pensiero storico e critica. La critica si fonda sulla conoscenza della storia, ma la storia è possibile solo con un approccio critico rispetto alla realtà. Anche questo è un peso di modernità. Allora, tornando a noi, la definizione delle date periodizzanti, come vedi, fa parte di questo meccanismo, perché segna e il gioco continuità discontinuità. Ricordiamoci un attimo, ma tutto in qualche modo è la continuazione di qualche altra cosa, per il semplice fatto, dicevamo, che nella storia nulla sorge dal niente. È evidente che tutto è la continuazione di qualche altra cosa. Voi siete la continuazione dei vostri genitori, che a loro volta sono la continuazione di loro e così via. Questo è la storia del genoma umano. Eppure, fra il nostro lontanissimo progenitore del 7-8.000 avanti Cristo, credo, l'Homo Pekinensis, e noi, beh, qualche differenza credo che ci sia, non credo che nessuno, oddio, in qualche caso io faccio fatica a individuarla, devo dire la verità, però in generale noi ci riterremmo piuttosto diversi dal nostro lontano progenitore. E quindi tutto è continuazione, ma ci sono anche le discontinuità, c'è anche qualcosa che cambia e il cambiamento non avviene in modo uniforme nel tempo. Di qui il discorso delle accelerazioni di cui mi è stato chiesto. Però attenzione, le accelerazioni non sono un fatto contrario, non è soltanto che la stessa cosa che dovrebbe avvenire entro 3 anni è avvenuta in 1 anno. Ma vabbè, c'è solo anticipo di 2 anni. Non è così. Intanto perché io vi ho spiegato che per le leggi della complessità, primo, i mutamenti non avvengono in modo che non c'è rapporto lineare fra input e output. E in secondo luogo vi ho spiegato che non è la stessa cosa se un fenomeno si determina in coincidenza di altri o no. Sì, se l'avvenimento A, il fenomeno A, si determina in coincidenza con i fenomeni B e C, darà certi risultati. Ma se si determinerà dopo che il fenomeno B si sia esaurito e mentre già iniziato il fenomeno D, darà altri risultati. Quindi anche l'accelerazione, attenzione, non è il fatto irrilevante, allo stesso modo in cui anche i discorsi di quantità segnano delle discontinuità. Se domani mattina arrivano in Italia 50.000 immigrati, ma quasi non ce ne accorgiamo, con le frontiere con la Bologna ci troviamo, capirai. Ma se ne arrivassero 500.000, è certo che ce ne accorgeremmo e questo provocherebbe un'ondata perturbativa. Se ne arrivassero 5 milioni sarebbe una catastrofe ambientale. Se arrivano 5 milioni di persone in una sola giornata in un determinato ambito piuttosto ristretto come può essere la società urbana italiana, e voi capite che questo provoca problemi ingiustificabili, a cominciare per esempio da problemi di distribuzione alimentare, cioè improvvisamente dover nutrire 5 milioni di persone più concentrate in alcune zone provocherebbe problemi di questo genere. Quindi, come vedete, anche le quantità non sono un dato rilevante, provocano problemi qualitativamente diversi. E anche l'accelerazione, che non è altro che un problema di quantità del tempo, di densità di avvenimenti nel tempo, non è un dato relativo. È un dato che segna dei salti. Veniamo ora alla in realtà mi sento povero di tempo, quindi ho questa continua ansia di... Veniamo ora alla... Questo già in qualche modo accenna a una domanda che mi ha fatto un vostro collega, se ho ben trascritto Benitis. C'è? Sì. Lo sa? Ah, senta, ma lo pronuncio bene? Benitis. Benitis. Benitis. Però... Benitis. Poi mi dirà un giorno come si scrive esattamente, che mi ha detto, io lo scrivo così, va bene, ok. Allora, cos'è una biforcazione catastrofica? In altri termini, cos'è una soluzione di continuità? Una discontinuità? Guardate, in alcuni ambiti il discorso è facile, in altri ambiti molto difficile. Il concetto di biforcazione catastrofica nasce in ambito biologico, come vi ho spiegato. Vi ho spiegato che i mutamenti, ad esempio biologici, si producono in un certo periodo, con frequenza più o meno discontinua, e si producono per accumulazione. A un certo punto l'accumulazione produce una rottura. O come se noi su un solaio caricassimo dei pesi, ad esempio i libri. Un libro sull'altro non succede assolutamente niente, con un altro libro non succede niente, poi l'ultimo quadernetto invisibile farà crollare il solaio. Quello che succede a casa mia, insomma, temo molto seriamente per i miei su casa di solito, ma insomma. Bene. Allora, nella biologia accade qualcosa di estremamente simile. A un certo punto le mutazioni genetiche in una determinata specie inducono alla nascita di nuove specie. Voi sapete che esiste in biologia un concetto che è quello di barriera di specie, per cui due specie non sono incrociabili fra loro. Voi non potete, perché due specie diverse da eventuali incroci producono o dei soggetti sterili o non hanno alcun esito. Se voi procedete a incrociare un gatto con un cane, non succede assolutamente nulla. Se provate a incrociare un mulo copre un cavallo con un asino, otterrete un mulo. Ma il mulo è per sua natura sterile, non procrea. Ecco, questa è la barriera di specie. E tra l'altro ci sono alcune persone voi che hanno una voce piuttosto bassa, che ha una vibrazione continua, che si avverte. Allora, lo scambio di qualche parola va bene, ma continuando no. Allora, dicevo, nel caso della biologia il concetto è abbastanza chiaro, abbastanza preciso. Abbiamo la nascita di una nuova specie, cioè di una entità biologica distinta da tutte le altre e non più incrociante con altre. C'è la barriera di specie. Abbiamo un'individualità di gruppo ben definita, precisa. Ecco, voi capite che nell'umanità, nei fenomeni umani, sociali, questo non si produce. Intanto perché le cosiddette razze non sono specie di esse, sono perfettamente incrociabili tra loro, e infatti il punto su cui tutti i razzismi biologici hanno sempre ricevuto costante smentita è esattamente il fatto che il concetto di razza non è un concetto scientificamente fondato, e quindi ogni pratica di despecificazione non è altro che un'operazione politica scientificamente fondata. L'idea che gli ebrei siano gli ebrei, quelli di colore, i cinesi, quello che è, non siano esseri umani, è un'idea che è stata utilizzata spesso nella propaganda politica, ad esempio in tutti i razzismi del mondo, e però il risultato finale non è stato un risultato, ha semplicemente prodotto dei massacri, ha prodotto delle grandi tragedie, ma è stato costantemente smentito dalla realtà scientifica. Quindi nel caso delle scelte umane, individuare una bifurcazione catastrofica al di là della quale si produce qualcosa di completamente diverso, tale da, è un discorso molto meno, diciamo, preciso. Orientativamente noi avvertiamo che dopo la rivoluzione francese si è prodotto qualcosa che ha cambiato definitivamente, c'è una bifurcazione, e però non è proprio perfetta. Il tentativo di restaurazione c'è stato, un compromesso fra vecchio e nuovo si è realizzato, per esempio con la monarchia orealista, che ha in qualche modo prodotto un modello costituzionale che non è poi del tutto esaurito, che voi trovate per esempio ancora per certi versi riflesso nelle nostre costituzioni contemporanee, attuali. Quindi non tutto riesce a risolversi in un processo di bifurcazione catastrofica così netta, così pulita, da poter essere individuata come biologia, come una soglia di qua di là. Nei processi storico-sociali queste cose non si producono in questi tempi. E allora veniamo a come si identifica il processo di globalizzazione attraverso le soglie periodizzanti che lo caratterizzano. Allora, c'è un primo atteggiamento che è quello che dice, ma in realtà di globalizzazione si può parlare già dal 1492. La scoperta dell'America crea la unicità del mondo, la raggiungibilità di qualsiasi parte del continente. A voler essere precisi, c'è ancora un pezzo di mondo che è rimasto fuori, che è l'Australia, che verrà scoperta nel 1737. Però questo in realtà è un discorso, per esempio, è un discorso che va molto nel nel senso di quello che dice Brodelli, che fa nascere il capitalismo nel Cinquecento, cioè quindi capitalismo e globalizzazione sarebbero nati un po' insieme e sarebbero appunto, perlomeno ci sarebbe questa sorta di grande anticamera della globalizzazione che è la scoperta dell'America e la nascita del colonialismo europeo. C'è chi la sposta un po' più in là, a metà del Settecento, con la rivoluzione industriale. In realtà tutto questo ha un senso se noi accettiamo un'idea di globalizzazione solo ed esclusivamente in termini economici, se torniamo soprattutto a quella idea eurocentrica per la quale la storia è scandita dalle fasi di affermazione, di proiezione dell'Europa nel mondo. C'è chi con maggiore realismo parla di una prima globalizzazione intorno alla metà dell'Ottocento. Nel 1850 abbiamo il picco massimo di storia mondiale di incremento della produzione industriale. Capiamoci, non è che nel 1850 abbiamo avuto la punta alta di produzione industriale, no, quella abbiamo avuto l'incremento, e siccome la base di partenza dell'anno successivo era bassa, è ovvio che su una base voi fate statistica, magari, sì? Voi capite che su una base 2 è facilissimo raddoppiare e fare 4 e avrete un indice di sviluppo del 100%. Su una base 10.000 ed è ovviamente un indice di sviluppo altissimo, sarà il 7%, e quindi la differenza sarà solo di 700 unità, che però è molto più dei due di cui abbiamo parlato prima, ma percentualmente. Allora, nel 1850 abbiamo il picco massimo di incremento della produzione mondiale industriale. Fino sostanzialmente al 1873 abbiamo una fase di crescita intensa della produzione industriale, ma soprattutto abbiamo la nascita di mercati raggiungibili e comunicanti fra loro. Grazie a che cosa? All'energia a vapore, che si è trasformata in locomotive e in navigazione a vapore, in piroscafi a vapore. Questo permette il trasporto di merci anche deperibili su percorsi molto più lunghi del passato, in tempi infinitamente più brevi, e questo cambia la società. Per la verità non cambia sui mercati, cambia, e qui comincio a introdurre un concetto che svilupperemo: il nesso che c'è fra dimensione economica e dimensione militare, fra mercati e dimensione, fra mercati e guerra, che invece sarà una cosa che ci accompagnerà in tutto questo corso. La locomotività non rende solo raggiungibili i mercati, rende raggiungibili anche linee del fronte molto lontane. Per cui gli eserciti, vedete come la quantità diventa anche qualità. Gli eserciti che ancora con Napoleone erano eserciti di alcune decine di migliaia, forse qualche centinaio di migliaia di uomini, e non potevano essere di più, perché c'era un problema, bisognava alimentare le truppe, e quindi ci voleva un esercito supplementare semplicemente per rifornire l'esercito al fronte. Quindi al fronte non potevi mandare più di alcune decine di uomini. Con la ferrovia diventano alimentabili grandi masse militarizzate. La vera costrizione obbligatoria nasce in questo periodo e gli eserciti diventano eserciti di milioni di uomini. La grande prova di tutto questo avverrà significativamente con la guerra di secessione americana. E la battaglia di Gettysburg, anche con la comparsa delle armi automatiche, equivarrà all'atto di nascita della seconda rivoluzione militare nella storia umana. Quindi è grazie a questo vettore, ecco, vedete come l'accelerazione, abbiamo semplicemente un vettore che riesce a trasportare merce molto più velocemente, però aggiungiamo molto più economicamente, perché con la stessa quantità di energia, in questo caso energia da carbone, noi riusciamo a trasportare molta più merce e quindi il trasporto è un fatto molto più economico. Ecco come l'accelerazione ha cambiato quantitativamente la società. Ha cambiato i mercati, ha cambiato l'esercito, ha cambiato la guerra. Cambierà la politica e la cultura. Poi subentra un momento di crollo, la prima grande depressione, che si abbatte dal 1873 al 1895. Improvvisamente i mercati finanziari crollano, c'è una crisi da superproduzione. La produzione industriale cresce molto più velocemente della capacità di assorbimento dei mercati. I salari sono fermi, anche addirittura i salari tendono a decrescere in questa fase di intensa industrializzazione. E dunque la crisi da superproduzione si traduce in una grande depressione. E ci sarà una nuova fase di ripresa di grandi scambi internazionali che viene identificata come la prima grande globalizzazione fra il 1896 e il 1914, fase nella quale gli scambi internazionali raggiungeranno un volume che sarà pareggiato soltanto molti decenni dopo, negli anni 90. Poi spiegherò il perché di questa strana pausa, di questa relativa deglobalizzazione. Però attenzione, perché vedete, accanto a queste periodizzazioni molto legate alla storia economica, ci sono altri tipi di periodizzazioni più o meno coincidenti. Per esempio la storia politica, e ci sarà chi parlerà di età dell'imperialismo, che non è coincidente con questa periodizzazione. Altro tipo di soglie. C'è chi dirà che, ad esempio Marx, dirà che l'unificazione mondiale del mercato, ma nello stesso tempo la nascita di una civiltà mondiale, per la verità ne parlerà con eccessivo entusiasmo dal mio punto di vista, coinciderà con il 1842 con la colonizzazione dell'India da parte dell'Inghilterra, della quale dirà, certo, la colonizzazione dell'India è costata delle violenze inaudite, dei grandi crimini contro l'umanità, ma ha rappresentato uno straordinario salto di civiltà. Nasce il mercato mondiale. C'è chi insisterà più che sul dato economico, sul dato politico dell'età di e quindi, per esempio, su come cambia la balance of power, la bilancia del potere fra le grandi potenze europee, fino al 1914, data della grande deflagrazione della guerra mondiale. E guardate che, se è vero che nella guerra incide molto il punto di arrivo della concorrenza internazionale, che si torna insostenibile sui termini economici e deve trovare uno sbocco in termini di rapporti di forza, è però vero che la grande prima età della globalizzazione ha termine non per un fatto economico, ma per un fatto politico, la guerra. Inizierà quello che viene indicato come la grande trasformazione, il periodo che va dal 1914 al 1945 e che altri definiranno, per esempio, il periodo della grande guerra civile europea, Nolte la definisce in questo modo. Il grande sconvolgimento durante il quale avverrà la seconda grande depressione con la crisi del 1929. Anche questa è una crisi da sovrapproduzione, ma probabilmente non solo da sovrapproduzione. La grande crisi del 29 è determinata, ha un riflesso, è un riflesso a sua volta delle condizioni di pace imposte alla Germania, che diventerà rapidamente insolvente, il crollo della moneta tedesca con l'iperinflazione in periodo weimariano sarà in qualche modo la base dei crack bancari inglesi e di conseguenza americani che porteranno al crack del 29. Nascerà di nuovo, ci sarà una ripresa grazie all'intervento statale in economia, però la vera uscita in qualche modo sarà rappresentata dalla nuova guerra, quindi di nuovo un fatto politico-militare, come vedete. Alla fine della guerra assisteremo a un fatto nuovo, un mondo diviso in due, successivamente diviso in tre grandi zone, una zona di influenza occidentale riunita intorno agli Stati Uniti, che ormai si affermano come potenza guida del blocco occidentale, un grande blocco orientale riunito intorno al progetto di industrializzazione collettivista dell'Unione Sovietica, e un gruppo di paesi che in qualche modo si connetteranno nel patto di Varsavia o comunque attraverso la comune appartenenza ideologica nel caso della Cina, e poi il cosiddetto terzo mondo, indicato solo limitatamente dalle sue condizioni di mancato sviluppo o ridotto sviluppo, e che includerà sostanzialmente i paesi del sud del mondo. In questo periodo avverranno degli avvenimenti con delle date che io indico come periodizzanti: il 1945 con gli accordi di Bretton Woods, il 1973 con, anzi, 1971 con la denuncia degli accordi di Bretton Woods da parte di Nixon, la non convertibilità del dollaro, il 1973 con la guerra del Kippur, il 1979-80 con la seconda grande crisi del petrolio, il 1989 con il crollo del blocco dell'Est, il 1989-91 perché poi c'è il crollo dell'URSS, il 1993 con la definizione del consenso di Washington. Ma di questo parleremo, questa fase la affronteremo domani, Capriole permettendo, per il mio arrivo. Adesso, come voi sapete, io dedico sempre una parte della lezione alla discussione, alle domande, grazie alla partecipazione anche di altri che hanno partecipato alle precedenti lezioni. Voi sapete che c'è sempre il meccanismo del volontariato, conoscete, vero? Allora, intanto non so se le persone a cui ho risposto si ritengono soddisfatte oppure vogliono qualche precisazione o hanno qualche dissenso. Quantomeno fra le democrazie, con la teoria, se non sbaglio, della pace democratica, ma come abbiamo appena visto, questo rapporto in realtà non è, non si è storicamente verificato sempre, quantomeno con lo scoppio delle guerre mondiali, che appunto si è verificato con lo scoppio della prima guerra mondiale subito dopo questo periodo di estrema interdipendenza. Allora qual è il rapporto, soprattutto guardando al futuro, visto che siamo tornati in un periodo di estrema interdipendenza, pensa che si potrebbe verificare di nuovo un crollo dell'interdipendenza economica? Molinari. Cosa fosse significato? No, man mano comincio a impararlo, però ripeterlo, ma sempre bene, perché così. Dunque, no, vorrei capire un po' meglio qual è il peso effettivo nelle scienze storico-sociali di questi dati terrorizzanti. Perché noi abbiamo detto all'inizio che non è così marcato il confine come in biologia, diciamo, fra un evento e un altro, fra una incrocia e un altro. Detto questo, però, lei stesso ha fatto degli esempi di date che segnano inevitabilmente una separazione. Adesso, per non citare sempre la rivoluzione francese, la prima guerra mondiale è comunque un evento che segna, se vogliamo dire, un collasso delle tensioni, delle ideologie, dei movimenti storico-economici sviluppatisi nell'Ottocento, e segna una linea di demarcazione abbastanza netta. Quindi qual è effettivamente il peso delle date periodizzanti? Si può ricorrere a queste date per fare una ricostruzione affidabile della storia? Come l'ha definita, per una? Ricostruzione affidabile. Poi, Viena, sì, che io già ho interpretato. Però amplissime, riguardano tutto il mondo, però si sono già presentati in passato in un mondo che è globale, ma in senso più, come dire, europeo, asiatico, cioè che il mondo interconnesso ci fosse e che però fosse limitato geograficamente. E poi volevo dire un'altra cosa, secondo me sulle periodizzazioni, cioè ci sono, come dire, relativizzando in eccesso, secondo me si va un po' in errore, nel senso che a mio parere esistono alcuni processi di accumulazione storica in cui diciamo la scoperta dell'America è stata la conseguenza di un processo sociopolitico che si è realizzato in Europa. Però per esempio pochi anni prima anche i cinesi potenzialmente con la famosa spedizione di Zenka in Africa eccetera eccetera avrebbero potuto iniziare. Ma perché ce l'abbiamo anche fatta, sa? No, però dico, ce l'hanno fatta, però avrebbero potuto realizzare un processo di colonizzazione alternativo a quello europeo. Quindi secondo me diciamo che certe onde lunghe della storia alla fine si possono identificare in uno scenario globale, ma limitato geograficamente. Che prima dell'espansione geografica era limitato all'Eurasia, diciamo, e poi si è espanso in America, in Asia, eccetera. Va bene. Ancora. La globalizzazione è questa e non si può tornare indietro. la globalizzazione è e non ci si poteva fare altro che accettarla, si è determinata da sola per una sorta di logica della storia. Spesso è questo, qualche volta la cosa veste i panni del progresso, qualche volta la globalizzazione era qualcosa che premeva dietro la porta del presente, trattenuta solo da quella barriera che era la cortina di ferro. Caduta la cortina di ferro e il muro di Berlino, la globalizzazione non ha avuto più ostacoli e si è affermata inevitabilmente. Questo il più delle volte è l'immagine che viene data della globalizzazione. Ma è vero? Tutto questo è vero o no? E fino a che punto è vero? Indubbiamente dei dati, se vogliamo, oggettivi ci sono. Una sovrapposizione involontaria di dati soggettivi c'è. Lo sviluppo delle telecomunicazioni, la nascita di Internet, certo, sicuramente ha dei rapporti con i progetti geopolitici che ci sono, però con ogni probabilità non è stata pensata fin dall'inizio in questi termini e con questo tipo di funzionalità, eccetera. Un po' i progetti difficilmente sono dei piani definiti che scaturiscono come un'erba armata dal cervello di Giove. Spesso i progetti si fanno in itinere, metabolizzano novità che raggiungono il tavolo man mano. Chiaro? Però tutto questo è davvero, è tutto solo oggettivo, è tutto solo unicamente così, senza alternative? E sino a che punto tutte le nostre scelte sono irreversibili? Proprio questo noi cercheremo di capire. Vediamo se mi trovo qui, così faccio contenti l'elenco delle prossime lezioni degli argomenti. Allora, noi avremo questi argomenti. Primo, la globalizzazione internazionale come fatto economico, i processi di delocalizzazione, i processi di spostamento di libertà di circolazione dei capitali, eccetera. Poi la crisi finanziaria e l'ordine monetario. Poi, e questo diciamo è il profilo più strettamente economico della globalizzazione. Poi parleremo del profilo più sociale, la crescita delle diseguaglianze, la crisi del welfare, i processi di massa indotti dalla globalizzazione. E sempre per parlare del profilo sociale parleremo dei problemi demografici e dell'immigrazione. Poi parleremo del profilo politico, a cui daremo un po' più di attenzione. Quindi viene tutto il problema del conflitto di civiltà, se c'è, se non c'è, cosa bisogna intendere. Poi parleremo dello Stato-nazione, della crisi dello Stato-nazione, anche questo è uno dei temi della globalizzazione che viene presentato come oggettivo definitivo. Il problema della democrazia e del diritto nell'età della globalizzazione, a proposito di chi mi chiedeva se la globalizzazione favorisce o meno i processi di libertà politica. Poi parleremo delle sfide alla modernizzazione: il terrorismo, la criminalità, vedremo le nuove direzioni, il problema del clima e dell'ambiente, il problema dell'energia e del cibo. Poi parleremo della guerra e della globalizzazione e in margine dovremmo avere tre lezioni a due voci. Uno su ordine, non ve lo prometto, una è quasi certa, quella sulla Cina, è un po' il caso emblematico della, degli effetti della globalizzazione sull'ordine mondiale, è che dovremmo fare l'11 giugno con il mio amico giornalista Tavia, che è il responsabile dell'agenzia dell'AGI Italia da Pechino, dell'AGI Cina. Poi ci dovrebbero essere altri due incontri, non vi dico il nome perché non ho ricevuto ancora l'assenso, uno sull'ordine politico, la disunità del mondo, e l'altro sull'intelligence. Alla fine concluderemo appunto con la guerra e i problemi militari della globalizzazione. Come vedete è esattamente quello che lei mi ha chiesto: cosa c'è nella globalizzazione di oggettivo, cosa c'è di brutto, cosa c'è di reversibile, quali sono le possibili alternative, quanto è dovuto a una scelta soggettiva, quanto è dovuto a scelte invece, a processi oggettivi e indipendenti dalla volontà. E questa è una domanda che, a proposito, vi ricordate la legge delle 19 domande? Beh, questa grosso modo è la domanda che vi sentirete fare tutti quanti. A proposito, qualcuno mi ha scritto una mail dicendomi, chiedendomi se davvero esiste il libro che vi ho detto su tre dell'ode senza studiare, e mettendo in dubbio che ve lo sia inventato. No, veramente c'era portato, e vi dico una cosa, c'è, è di Lorenzo Ait, so chi sia, ed è della Castellani. Non provateci, perché io lo conosco, l'ho letto e conosco qualche trucco in più, quindi com'è che non ci provate? Fate voi, io incontrerò anche il problema. Allora, quindi, prima cosa, questa è la domanda che lei si sentirà fare, magari in riferimento a qualche aspetto, a qualche problema. Vengo invece alle altre, quindi rispondo implicitamente anche al discorso della criminalità che sarà oggetto di una lezione. Se ci riesco, ma non mi giuro niente, forse questa lezione avverrà a due voci, tra me e uno dei procuratori della Repubblica più impegnati su questo versante. Potrebbe essere il dottor Ingroia della Procura di Palermo, che è da sempre uno dei magistrati più impegnati sul versante antimafia e che quindi ha una conoscenza obiettiva del fenomeno. Tra l'altro, per inciso, non è vero che la nostra sia la sesta mafia del mondo, in realtà una collocazione ben più blasonata. Vengo invece prima di tutto, devo togliere davanti quelle soso di qua, di qua sopra, non si accontenta, bene soso, salta, vabbè. Allora, mi dice, la seconda globalizzazione, la prima globalizzazione, cioè beh, in fin dei conti, noi stiamo assistendo, è una battuta a qualità. No, non ho capito quello che è. Dico che devo rispondere prima di tutto a lei, che non si è accontentato della risposta che ho dato, che è desoso perché vuole di più. Vabbè, allora, lei dice, vabbè, ma in fondo, in scala, noi stiamo assistendo alla ripetizione di fenomeni già accaduti su scala più piccola, più semplicemente la scala più ampia. Non sono d'accordo su questo, non sono d'accordo del tipo perché, man mano che andremo avanti, lo vedremo, intanto perché appunto una volta la quantità determina anche la qualità, vede, anche il discorso di scala. Se lei riduce una foto al computer, fa un trattamento per comprimerla, è inevitabilmente oltre una certa soglia perde informazioni, perché perde pixel e quindi reingrandita la foto non darà più lo stesso risultato, sembrerà granata. Viceversa, può essere che in una proiezione più ampia si debba tenere presente di informazioni che non ci sarebbero in una scala più ridotta. Quindi già il discorso di scala è tanto, ma soprattutto attenzione, non è così. Questa globalizzazione presenta problemi qualitativamente diversi. Il fatto stesso che lei dice che quello è un ambito europeo, qui è un ambito mondiale, e fa nascere un discorso come quello del confronto, scontro, collaborazione, civiltà. In qualche modo lo abbiamo fatto questo con i nativi dell'India. C'è stato un incontro di civiltà che li ha stesi definitivamente e il problema si è risolto. Questa volta ho l'impressione che il problema si ponga in termini un po' diversi. Attenzione, cioè abbiamo un problema. Altra cosa, il problema della criminalità, quello che io chiamo, ragazzi, vabbè, siamo adesso alla fine lezione, però un po' di quello che io chiamo la rivoluzione criminale del XX secolo, non è un fenomeno che lei trova nel passato. Lei trova solo un precedente di questo tipo incomparabile, che è quello della pirateria del XVIII secolo, del XVII-XVIII secolo, che però non ha nulla di paragonabile con quello che è accaduto, che sta accadendo oggi. Oggi lei può parlare, la pirateria al massimo ha svolto una funzione ausiliaria nel processo di accumulazione originaria che ha portato alla nascita del sistema capitalistico mondiale, in particolare all'accumulazione che ha fatto decollare la potenza inglese. Oggi lei può parlare, e alcuni autori parlano, addirittura di un modo di produzione criminale. È una realtà totalmente diversa. Il terrorismo non è un problema che lei ha avuto prima, e il terrorismo viaggia sulle ali della globalizzazione. L'11 settembre non è pensabile separatamente dal doppio registro terrorismo-globalizzazione. Le sue conseguenze, ci sono tutta una serie di cose che sono proprio specifiche all'epoca e noi le studieremo qui. Quindi lei coglie bene il fatto che, non tutto è nuovo, alcune cose abbiamo visto, ci sono delle continuità, e ci sono delle cose che in scala. Però si attenta a una cosa, una delle trappole del pensiero storico, che cambia il pensiero storico delle trappole, è il ricorso esasperato alla demagogia. Per cui tutto in qualche modo è la ripetizione di qualcosa che già accaduto. La crisi del 2008, e tutti ne hanno parlato come di un nuovo venismo. Se lei sfoglia i giornali vedrà che tutto il periodo che va dall'agosto del 2007 ad abbondante metà del 2008, il dibattito è: ma è un nuovo 29 o non è un nuovo 29? Perché la conseguenza è: ma torna di attualità il keynesismo, il deal o no? Oppure l'onda è stato un nuovo 68, ad esempio, e il 68 a sua volta è stata una nuova rivoluzione francese, il maggio francese, e così via. Sì, delle somiglianze ci sono, però ragazzi, convincetevi, l'onda è 68, la crisi del 2008 è la crisi del 2008, non è il nuovo 29. Alla stessa maniera in cui la comodità non è la carrozza senza cavalli, cioè ci sono delle cose che sono effettivamente nuove, certo che sono il prodotto di processi storici che in qualche modo le hanno determinate, ma a un certo punto nasce la novità, la discontinuità. Attenzione, perché riconoscere la discontinuità in storia è molto più importante che la insistenza sulla continuità, l'analogia, corre il rischio di avere un effetto altamente anestetizzante. È un fatto psicologico, finisce con dare una serie di false certezze, per cui ce l'abbiamo fatta quella volta, ce la faremo anche per il lieto fine assicurato. Non è sempre così. E soprattutto ci sono problemi nuovi che vanno affrontati con ricette nuove. La ripetizione di schemi precedenti il più delle volte è dannosa. Quindi quello che le voglio dire, lei coglie un dato giusto, però stia attento a non farsi ipnotizzare dalla Maria, dalla suggestione dell'analogia. L'analogia può essere sempre molto ingannevole. Stia attento alle discontinuità, ne troveremo molte nel corso di queste lezioni, lo vedrà. Soprattutto quando parleremo di guerra, e qui vengo a chi questi mi fanno l'ora di meno di 60 minuti, è un problema, vabbè. Allora, la cosa aggiungere una domanda? Sì, lei è? Bene, con la B, bene. Nome della una. Allora, volevo chiedere se secondo lei, e probabilmente il fatto che ne stiamo parlando della globalizzazione in questi termini, cioè in un corso universitario, nel corso ma conferma, la globalizzazione sia nella sua fase discendente o comunque abbia, diciamo, esaurito la sua spinta, probabilmente. Questo è quello che le chiedo. Nel senso che probabilmente tutti gli attriti ambientali, questa generazione, i vari movimenti che ci sono stati, che possono andare da un po' da altro, abbiano bloccato questa spinta e stiano facendo comunque sfidare la parabola di questo processo in un finale che è abbastanza io su questo tornerò tantissimo sul tema della guerra che mi era stato sollevato da Molinari, no, da Vignani, però. Allora, io non credo che la globalizzazione abbia finito la sua spinta propulsiva, né nel bene né nel male. Io credo che sia finito un periodo della globalizzazione, c'è stato il collasso di un progetto, però attenzione, non la sua liquidazione. Ancora assisteremo, cioè la globalizzazione, come vedremo dopo, è anche un progetto. Trae le sue origini da un progetto. Dopo se ne sono innestati altri. Al progetto americano di globalizzazione, dopo sono succeduti altri progetti, per esempio c'è quello cinese. Io credo che noi assisteremo a una nuova fase della globalizzazione con caratteristiche diverse, tutte da capire e da individuare. Ad esempio, ma lo vedremo poi, noi dovremmo affrontare il nodo dell'ordine monetario internazionale. L'attuale ordine monetario e la globalizzazione, progetto e processo, in questa fase si è fatta sul presupposto il dollaro moneta di riferimento degli scambi internazionali. Punto e basta. Chiaro? Per cui c'era, lei mi sta facendo anticipare delle cose, la seconda guerra del petrolio del 79, perché è importante? Perché culmina in un accordo fra l'Arabia Saudita e gli Stati Uniti, per cui l'Arabia Saudita, principale paese dell'OPEC all'epoca, accetta di scambiare il suo petrolio esclusivamente in dollari, poi seguita da tutti gli altri. Ora, l'idea che il dollaro sia la principale punto di riferimento di scambi internazionali, principale mezzo di scambio, è ancora attuale oggi o no? È chiarissimo che c'è un riscontro fra i paesi del BRIC, Brasile, Russia, India, Cina, a cui si sta aggiungendo il Sudafrica, e gli Stati Uniti. I paesi del BRIC dicono non se ne parla più, facciamo un paniere, una moneta virtuale agganciata a un paniere di monete forti, e quello è il parametro di riferimento degli scambi internazionali. sono gli Stati Uniti che a quel momento non sentono. Questo sarà oggetto di scontro. E non è detto, e comincio a rispondere alla domanda sugli scontri militari, non è detto che sarà solo uno scontro di natura economica monetaria. Potrebbe avere anche riflessi militari molto pesanti. Tutto questo è sulle ginocchia di Giove. Cosa succederà? Lo vedremo. Certo è una cosa difficilmente, in un caso o nell'altro, sia che il dollaro ribadisca, grazie per esempio alla sua egemonia militare, la sua posizione, sia che invece venga scalzato, in tutti e due i casi si produrranno una serie di deformazioni nel processo che non sarà più quello che abbiamo conosciuto. Quindi la globalizzazione non credo che abbia esaurito la sua spinta propulsiva, d'altro canto ci sono una serie di dati, cioè la globalizzazione non è solo un progetto, è un'invenzione, stiamo attenti. La globalizzazione si basa anche su internet, è una realtà dalla quale mi sembra un po' difficile deguire, a meno di una catastrofe mondiale notevole. Guardi che dalle rotte aeree al funzionamento delle ferrovie, al funzionamento coordinato delle banche, eccetera, funziona tutto su internet. Un collasso di internet è molto di più della nube radioattiva, della nube vulcanica. Ci siamo? Quindi, obiettivamente, gli sviluppi delle telecomunicazioni, gli sviluppi dell'industria dei trasporti, quelli sono fatti treno a alta velocità, per cui oggi tu puoi pensare a un treno Londra di Latino come un'alternativa praticabile al traffico aereo. E ovviamente la possibilità che c'è. Rispetto a questo ovvio che non tornare indietro. Però che forme assumerà? Io credo che soprattutto sarà decisiva una cosa, e rispondo ancora a Bettignani. Io credo che mentre l'ideologia corrente guarda all'economia come al campo in cui si determineranno le decisioni fondamentali, io credo che il campo della politica sarà quello in cui si giocherà la partita decisiva, e per politica intendo anche il dato militare. La politica non è separata dal dato militare. Non si esaurisce nel dato militare, ma non è. Mi rimane da rispondere a Molinari sul peso delle date periodizzanti, però vi vedo già piuttosto nervosi e intatti, per cui lo farò domani.